Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Seconda giornata di Confederation Cup, la prima che conta per l'Italia, visto che stasera debutta contro gli Stati Uniti. Fatica a diventare importante questa Confederation Cup, ha scritto stamane Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, perché non ha niente di ultimativo. Si può anche perdere senza che succeda niente, ed il calcio oggi o offre spareggi, risultati drammatici, oppure uno spettacolo dimezzato. E questa è una buona considerazione che si può fare. Io ricordo nella storia recente, ma recente fino a un certo punto, due tornei premondiali come questo, e cioè l'anno prima di un mondiale, un torneo a inviti ed esibizione giocato per esempio nell'85 in Messico, e quello lo ricordo bene perché c'ero, l'anno prima poi del titolo mondiale di Maradona e di un'Italia certamente poco brillante, perché troppo poco rinnovata da Bearzot, e poi nell'87 un torneo premondiale francese molto più spettacolare, molto più divertente invece, con un grande Brasile, in cui si cominciò a intuire che la Francia avrebbe potuto andare più lontano di quello che si sarebbe potuto immaginare. La dimensione di questo è da mettere ancora a fuoco, anche se qualche indicazione c'è già, e cioè i padroni di casa a un anno data dal mondiale non sembrano poter rientrare tra i favoriti. Il Sudafrica ieri ha pareggiato soltanto con l'Iraq del grande zingaro Bora Milutinovic, e la Spagna invece ha subito confermato che non si vince un campionato d'Europa per caso, e automaticamente ci si proietta tra i favoriti per l'edizione successiva, da lì a due anni del mondiale. Oggi pomeriggio è interessante il confronto tra Brasile e Egitto, non solo perché debutta il Brasile, che come sempre in questi tornei è se non il favorito d'obbligo quasi, ma anche perché l'Egitto è annunciato invece come una squadra africana di quella a cui fare attenzione, e poi stasera è il debutto italiano. Tutto questo ci aiuta ad inquadrarlo il nostro ministro degli esteri Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Buongiorno a te, Gigi. Un saluto. Da che parte vuoi cominciare? Io lascerei un pochino in secondo piano per il momento l'Italia, perché poi abbiamo un congruo numero di dichiarazioni di Lippi da ascoltare su vari argomenti. Toni, c'è la notizia all'ultima ora che sembrava Toni il Girardino, il centravanti prescelto per stasera, e invece nell'ultimo allenamento di rifinitura poco fa, in tarda mattinata, ha giocato Girardino al centro della squadra titolare, quindi potrebbe esserci stato un cambio d'avviso, ma insomma a tutto questo possiamo arrivare più tardi. Scegli tu il punto di partenza. Prenderei proprio l'articolo di Mario Sconcerti di stamattina sul Corriere, che ha fatto un'analisi molto condivisibile. Io partirei da un aspetto, che è quello climatico. Intanto in Sudafrica la sera fa fresco, si gioca a temperature molto diverse da quelle europee, e quindi questo credo possa essere un motivo in più per prepararsi meglio al mondiale dell'anno prossimo, cioè sia una sorta di antipasto caldo, anzi antipasto fresco in questo caso, e possa da un lato darci una Confederations Cup migliore di quella che si sarebbe potuta vedere con partite nel primo pomeriggio, perché tutti sanno quanto sia meglio dal punto di vista complessivo per i giocatori esprimersi a temperature più basse, e comunque chi gioca adesso la Confederations Cup ha dei parametri valutativi importanti anche per quanto riguarda la preparazione, in base anche ai luoghi di allenamento, quindi non lo considero un torneo inutile a questo punto di vista, lo considero un torneo comunque interessante, perché ci può intanto dire a che punto sta l'Italia, ma se non vogliamo parlare dell'Italia possiamo capire a che punto stanno gli avversari, e certamente la Spagna è un avversario che è in continua crescita, non soltanto a livello di campionato. Poi Lippi ieri ha fatto una riflessione interessante sul quello che è il valore del movimento, se sia il campionato esprimerlo oppure sia la nazionale. Gli spagnoli in questo sono molto equilibrati, sia tra campionato che tra nazionale esprimono dei livelli altissimi, e hanno un gruppo molto giovane sul quale possono investire e possono conquistare molti, molti successi. Che la Confederations Cup possa abbagliare, direi che la dimostrazione più evidente la data quella della Germania del 2005, perché sinceramente vedere quel Brasile ha fatto dire a molti: ma cosa si gioca a fare l'anno prossimo in Germania? Assegniamolo direttamente adesso il titolo e basta così. E invece poi 12 mesi dopo abbiamo visto che tutto è cambiato, perché certo, una Francia normalissima ha eliminato il Brasile e poi è andata in finale con l'Italia. Quindi attenzione, poi c'è la scaramanzia del fatto che chi vince la Confederation poi non vince il mondiale, ma quello direi è un aspetto secondario. Sì, quello fa parte poi del folklore, delle piccole scaramanzie che non incidono. Adesso l'importante è l'importante, insomma, senza esagerare, perché ha ragione Sconcerti, però l'interessante è vedere a che punto sono. Allora, sappiamo qual è il tema centrale che riguarda l'Italia, che è quello del rinnovamento, cioè fino a che punto rinnovare o meno. Vediamo le altre, vediamo in particolare le avversarie dell'Italia, a cominciare dagli Stati Uniti, più o meno forti, senza esagerare, insomma, più o meno attendibili come rivali rispetto a quelli che l'Italia trovò 3 anni fa nel girone eliminatorio? Beh, intanto diciamo che 3 anni fa l'Italia non vinse contro gli Stati Uniti, insomma, quello fu tra l'altro uno dei pochissimi gol, anche se fu un autogol di Zaccardo che l'Italia prese. Certamente l'Italia, giocando in 10 per quell'espulsione di De Rossi, ebbe più difficoltà che in altre partite. Gli Stati Uniti sono e rimangono un movimento atipico, rimangono un movimento troppo difficile da inquadrare, per il semplice fatto che gli Stati Uniti sono esattamente l'opposto di tanti altri stati, cioè non hanno un campionato, hanno una quota discreta di giocatori in giro per il mondo che fanno complessivamente molta esperienza e quindi si abituano a dimensioni di calcio molto vicine all'eccellenza, però complessivamente non sono mai una squadra, perché e comunque diventa molto difficile radunarli, diventa complicato andarli a recuperare in stagioni diverse, perché le Major League del soccer americano iniziano tra pochissimo, mentre invece i campionati europei sono finiti. E quindi onestamente il lavoro di Bradley è un lavoro certamente non facile. Io credo però che gli Stati Uniti abbiano dei valori, al di là di Donovan, che comunque è un giocatore che conosciamo bene, ma è un giocatore non più in una fase ascendente. E giocatori esterni di fascia come Dempsey sono giocatori comunque interessanti, per carità, nel campionato italiano ce ne sono decine, però sono dei ragazzi che hanno delle qualità. È una squadra che complessivamente gioca un calcio abbastanza semplice, legato al 4-4-2. Gioca Bradley, che è il figlio dell'allenatore, al centro del campo, un ragazzo di 23 anni, discretamente interessante, con una ottime attitudini dal punto di vista fisico. È una squadra che devi battere, è una squadra che non ti mette in difficoltà dal punto di vista tecnico, però se sta bene fisicamente, come credo stia bene, a temperature accettabili, climatiche, è una squadra che non ti regalerà nulla, cioè non sarà la Nuova Zelanda che abbiamo visto ieri sera contro la Spagna, questo è abbastanza sicuro. Senti, ci sono un paio di media ascoltatori che parlano di bu razzisti nei confronti dell'unico bianco che gioca nel Sudafrica ieri, corrisponde? Sì, corrisponde, ma io ho il sospetto che fosse per la qualità calcistica non particolarmente eccelsa di questo boot. Io sinceramente non ti posso dire con certezza se sia vero questo o se sia vero quello che ti ho appena detto io, perché bisogna essere lì non lo si può fare a migliaia di chilometri di distanza. È una domanda che proverò. Noi abbiamo un collaboratore in Sudafrica, si chiama Stefano Piazza, lo sentiremo ogni giorno e oggi insomma, ha già debuttato ieri, per la verità, con Carlo Genta, ma insomma più tardi ci sarà un collegamento con lui in finale di trasmissione e proverò a rigirargli questa domanda. Tenendo conto, Gigi, che questo è un problema che loro hanno, perché ad esempio nel rugby tu sai che per molti anni hanno avuto addirittura la regola delle quote bianche da inserire, quindi insomma e quant'altro, perché sinceramente questo è un paese che ha dei problemi più seri rispetto alla quota qualitativa della nazionale. Sì, ma infatti dato che queste due mail appena ricevute sottendono il concetto queste cose che accadono altrove voi non le sottolineate, mentre invece se accadono in Italia siete sempre pronti ad accettare. È un paese un po' diverso. Te credo, direi, no? Forse bisogna conoscere quel minimo di storia, geografia, etnia, no? In giro per il mondo. Aiuterebbe anche a compilare gli sms, ma insomma comunque non si può avere tutto dalla vita. Le altre due del nostro girone giocano alle 4 ed è una partita oggettivamente interessante, al di là poi del fatto che possa riverberare le conseguenze sulla classifica dell'Italia, perché il Brasile per un verso, e non è il caso di spendere nemmeno troppe parole, ma anche l'Egitto per l'altra, credo che siano due delle squadre più curiose di queste otto. Ma io sono molto più incuriosito dall'Egitto, nel senso che mi aspetto prima o poi, ma me lo aspetto da quando per la prima volta vidi il Camerun nell'82 giocare nel Mondiale di Spagna, mi aspetto che una nazione africana esploda e lo faccia anche a livelli superiori rispetto a, ad esempio alla Nigeria, che tanto bene giocò anche nel Mondiale del 94 e poi anche nel Mondiale di Francia, ma comunque insomma, l'Africa prima o poi un Mondiale lo vincerà, se sarà quello dell'anno prossimo io non lo so, credo però che l'Egitto sia una delle squadre più attrezzate, perché sia nell'ultima Coppa d'Africa che comunque in tutte le manifestazioni nelle quali si è potuta vedere, è una squadra che ha una qualità tecnica altissima, a questo giocatore che si chiama Zidane, che a me piace tantissimo e che in Bundesliga fa veramente delle cose fantastiche. A loro manca un pochino di spregiudicatezza difensiva, cioè quella capacità di a volte anche di buttare via la palla o la capacità di non prendere gol nei momenti chiave, che è proprio figlia di un calcio più europeo. Restano comunque deliziosi nel controllo di palla, a volte un po' spreconi, è sempre bello vedere giocare l'Egitto, è sempre bello vedere giocare queste nazionali. Credo che tatticamente loro non siano ancora riusciti a colmare il gap, nonostante abbiano fatto lavorare molti allenatori europei, Egitto e anche altre nazioni africane, ma non siano ancora riusciti ad essere a livello del calcio europeo, proprio perché hanno una mentalità un po' più spensierata, un po' più leggera, che li porta a volte a peccare, a commettere degli errori che diventano molto gravi quando hai di fronte calciatori che magari hanno esperienza in Champions League, dove basta niente, fai un gol, vedi Iniesta a un minuto dalla fine e poi vinci la Champions League in finale. Restano un paio di capitoli. Uno è il sempiterno Bora Milutinovic, che insomma, l'Iraq è la sua, ho perso il conto, forse la quinta avventura mondiale in continenti diversi, non lo so. Cinque almeno, potrebbero essere anche sei, però direi cinque, almeno cinque. Sì. E comunque, insomma, dato che le sue squadre un'impronta ce l'hanno sempre, anche l'Iraq, che insomma, ieri sembrava un po' la vittima sacrificale, no? Sull'altare del debutto dei padroni di casa del Sudafrica, e invece complice anche una sequenza un po' da ridolini. Una onestamente, Gigi, se tu non l'hai ancora vista, io credo che su YouTube già sì, no, visto. Quello che ha fatto Parker ieri credo che non abbia, cioè, se non facesse ridere sarebbe da ufficio inchiesta, perché lui, per chi non l'avesse vista, i tuoi ascoltatori, lui praticamente sulla linea di porta salva un gol, ma un gol a favore proprio, cioè certo. Il colpo di testa su un'uscita sciagurata del portiere dell'Iraq andava abbondantemente in porta e lui con un movimento completamente innaturale la tira fuori, ma con l'avversario più vicino a 3-4 metri, sì, ma sì, una cosa da non credere. E il grande vecchio Bora dice: non ho mai visto una cosa del genere nel calcio in tanti anni, ma sono molto felice di averla vista oggi, credo. Perché questo è il modo di aver debuttato in una maniera incoraggiante. L'altro capitolo invece riguarda Torres, la prendiamo molto sul serio, Torres e la Spagna, insomma, se c'è una nazione che oggi davvero scoppia di salute calcisticamente è quella. Sì, lo fa sia come campionato a livello di vertice che come nazionale, ma mi stupisce poco questo perché Fernando Torres è un giocatore davvero fantastico, lo ha dimostrato prima nella Liga, poi nella Premier League, lo potrebbe dimostrare nel campionato italiano, è un giocatore veramente completo, segna di destro, di sinistro, di testa, in dribbling, in diagonale, fa veramente tutto, è un giocatore che insomma in questo momento potrebbe anche non aver prezzo, perché lui andò al Liverpool per credo una trentina di milioni di euro e non c'è un raffronto tecnico con i 90 e passa spesi per Cristiano Ronaldo, per carità, sono paragoni che non vanno fatti da questo punto di vista, però stiamo comunque parlando di uno che ha una cifra tecnica e una cifra realizzativa che è altissima e dunque lui è il terminale perfetto. Poi quando riesce a dialogare con David Villa e con Fabregas, onestamente palla al piede, nello stretto, nel largo, lui è veramente bravo sia nel largo che nello stretto, sì. Cioè ha queste due dimensioni che lo rendono difficilmente marcabile, poi ha una velocità, credo si sia capito che mi piace molto. Sì, abbastanza. In attesa dei vostri interventi in voce all'800240024, Fabio Tavelli, prima di essere congedato, risponde a queste due domande. La prima, ripeto, di Marzio da Modena: perché queste otto squadre in questo torneo? perché la Confederations Cup si chiama appunto Coppa delle Confederazioni, la FIFA è divisa in confederazioni e quindi ci sono i vincitori del campionato europeo, quindi la confederazione UEFA in questo caso della Spagna, c'è la squadra che ha vinto il mondiale ed è l'Italia, ci sono i campioni del Sud America, cioè il Brasile, del Nord America, cioè gli Stati Uniti, ci sono i campioni dell'Asia e in questo caso c'è l'Iraq, poi ci sono i campioni d'Africa che sono l'Egitto che hanno vinto la Coppa d'Africa, c'è la nazione ospitante il Sudafrica e ci sono i campioni della zona Oceania, dell'Oceania che è la nuova zona. No, risposta direi ineccepibile. Ultima, Alberto domanda, che ne pensa il ministro degli esteri di questo nuovo terzino del Milan? Allora, ieri ne ho parlato con Malou, che è il direttore sportivo del Congo. Lui intanto mi ha detto di chiamarlo Cissoko e non Sissoko. Io ho qualche dubbio, ma comunque mi adeguo. Già questo è un passo avanti. Beh, intanto un chiarimento sulla pronuncia non guasta mai. Cominciamo. Sì, anche se onestamente la sua poi spiegazione è stata così non si confonde con quello della Juve. Beh, vabbè. Che a me non è bastata tantissimo, però vabbè. Mi rendo conto. Sono stato un po' in difficoltà ieri nominandolo qualche dozzina di volte nel mio lavoro quotidiano. Cosa ne penso? Beh, intanto penso che questo è un ragazzo che 6-7 mesi fa non giocava da nessuna parte, nel senso che giocava a Setúbal, che incidentalmente è anche la città dove è nato Mourinho, e ha avuto una vetrina importante nella Champions League. Ha giocato una partita interessante contro il Manchester United, ha anche abbastanza ben controllato Cristiano Ronaldo in Champions League. Dai filmati che ho visto ha una grande potenza e una grande capacità di andare profondo sulla fascia, e questo credo che sia un qualcosa di utile e importante. Cioè, ha un bel sinistro e quindi la palla in mezzo la sa mettere. Non conosco benissimo la sua fase difensiva, anche se insomma se ha limitato i danni una volta con Cristiano Ronaldo è certamente una cosa a suo favore. Credo che sia comunque una bella spesa, 15 milioni di euro. Penso anche che non sia un parvenu, perché in questo momento lo stavano seguendo, oltre al Milan e Lione, anche altre squadre europee, quindi insomma, senza averlo visto granché tante volte, sulla fiducia mi sembra un discreto acquisto. Ora, dire che cedere Kakà e prendere Sissoko è la stessa cosa e quindi siamo pari, beh, mi sembra francamente eccessivo e vado valutato. E quindi non lo diciamo, insomma. E quindi almeno noi no. Ma credo che nessuno lo dica, forse i parenti stretti di Cissoko, ma insomma sì, li sentiremo eventualmente esibirsi in questa. Sì, comunque complessivamente mi sembra che la strategia del Milan sia interessante, perché in un periodo non particolarmente grasso andare a prendere giocatori giovani come Thiago Silva prima, come Sissoko adesso o Cissoko adesso, e soprattutto Dzeko, che mi sembra un giocatore sul quale poter scommettere con qualche certezza in più, mi sembra intanto una linea di tendenza completamente diversa rispetto al passato, un modo un po' più intelligente rispetto a quello di prendere vecchi campioni non più in fase di ascendente, e quindi registriamolo, lo dobbiamo registrare in maniera positiva, direi. D'accordissimo. Grazie a Fabio Tavelli. A voi, buon proseguimento. Credo che in questi giorni continueremo ad avere dei rendezvous proprio di aggiornamento su quanto accade in Sudafrica. Vi ripeto, da un punto di vista strettamente tecnico, il suo, mentre poi avremo invece, prima del finale di programma, un'analisi diversa, forse, anzi diversa sicuro, più ambientale, più proiettata su più strutturale, anche più proiettata sul mondiale che ci sarà tra un anno, da parte di Stefano Piazza. Adesso, prima della disamina dei problemi, insomma, delle tutte le curiosità che riguardano l'Italia, due ascoltatori già collegati. Uno è Massimo, chiamato dalla Spezia. Buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Senta. Yeah. In merito, diciamo, alla questione degli acquisti del Real Madrid, quindi con questo esborso che ha invitato più persone, e con il discorso che ha fatto Platini, che vorrebbe che chi accedesse, cioè si può accedere alla Coppa dei Campioni chi ha i bilanci in regola. In Italia lei conosce qualche squadra che ha il bilancio in regola, cioè che se fosse un'azienda normale potrebbe appunto accedere alla Coppa dei Campioni? E questa era una domanda. E poi appunto per controbattere questo strapotere, secondo me bisogna cominciare a giocare d'astuzia, nel senso che bisogna cominciare ad andare a cercare, io sono juventino, i vari Torricelli, i vari Furino, i vari Bonini, e sperando appunto di tecnicamente andare a con la furbizia. A pescare di meglio di quello che ha detto. A pescare di meglio di quei due o tre che ha detto, tecnicamente. Lei ha detto tecnicamente. Lei ha citato tre grandi giocatori di temperamento. Tecnicamente, dato che ha usato l'avverbio tecnicamente, beh, insomma, speriamo di pescare di meglio, ecco. Di quei tre. Però voglio dire, mi ricordo una finale di Coppa dei Campioni con Torricelli che tre anni prima giocava, voglio dire, vabbè, l'aveva trovato tra pattoni, però insomma veniva da una serie C, se non mi sbaglio, ecco, tutto lì, ecco, insomma. Sì, io credo che come sempre ci siano dei momenti storici, no? Ci sono dei cicli sempre per ogni cosa della vita, riguardano il clima, riguardano tutti gli aspetti dell'esistenza, riguardano molto più in piccolo anche il calcio, e in questo momento storico mi pare che l'Italia sia, i club italiani, no? Siano in una fase di baisse, come dicono i francesi invece, e che quindi debba subire questo strapotere altrui. In assenza anche, non tanto in assenza di regole, ma in vacanza di regole, non è proprio un'assenza del tutto. C'è chi, appunto, lei l'ha ricordato, sta cercando di introdurlo o reintrodurlo, e ci sono ovviamente resistenze, non si arriverà mai al salary cap dell'NBA americana, anche perché non credo che si presti a questa disciplina e alle abitudini, alle tradizioni che ci sono, però bisogna provare ad andare entro certi limiti in quella direzione. Insomma, mi sembra un po' il tema portante di questo periodo, no? Di questa fase, dopo questi boom questi shock autentici di Florentino Perez, che potrebbero anche non essere ancora finiti, tra l'altro. Lillo ha chiamato da Torino, buongiorno. Buongiorno dottor Granzini, io volevo fare una domanda all'utente che c'era prima, proprio sul Real Madrid. Innanzitutto vuol sapere dove prende questi soldi, e poi non è detto che con i vari Kakà, Ronaldo e forse anche Simicic può vincere la Coppa Campione, anzi sarei contento da interista che Ibrahim da Real Madrid non c'è niente. E poi un'ultima constatazione, io sono un operaio Fiat e mi vergogno di sapere di un giocatore come Maicon o come Ibrahim ci guadagnano tutti quei soldi che puntano i piedi per trasferirsi. Io sono legato alla maglia, non ai giocatori, quindi se fossi Moratti finirei di fare il padre, li manderei via, me li farei pagare e poi rimane la maglia dell'Inter e basta con questi mercenari. La ringrazio, signor Garantino, aspetto in linea. Grazie a lei Lillo, tocca a Ruggero della provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno signor Granzini. Niente, io non ho visto ieri sera la Spagna come ha giocato, con chi ha giocato, non ho potuto seguirla. Comunque volevo capire una cosa, al di là di questo mi ricordo nell'ultimo europeo aver visto un grandissimo giocatore come Iniesta e un altro del quale nessuno parla che ritengo sia Senna. Questo è un giocatore di grandissime qualità al centrocampo e con doti anche di offensive particolari. E di copertura, non solo offensive. Senna era un po' il metronomo di quella squadra. Ecco, perché non nessuno parla di questo giocatore che per me potrebbe dare benissimo per qualsiasi club italiano? Perché probabilmente io credo che abbia avuto dei guai, ormai Tavelli è scollegato, glielo domanderò domani, perché non mi pare di averlo visto giocare molto quest'anno nemmeno nel Villarreal, che è il suo club. Senna non, giovanissimo non era e non è, quindi evidentemente. Può aver avuto, credo, qualche problemino fisico quest'anno, perché certamente in quella Spagna... era forse l'elemento meno, uno degli elementi del centrocampo perlomeno meno spettacolare, ma certo era quello di maggiore sostanza complessiva, con tutto rispetto per Xavi che giocò un grande europeo, come ha giocato quest'anno una grande stagione nel Barcellona. È anche vero che quei centrocampisti comunque sono maturati oggi, forse hanno un po' meno bisogno della tutela di un Senna di come avevano un anno fa. Arriviamo all'Italia, uno dei temi, vi dicevo, di partenza è quello generazionale, e cioè il ricambio, questi che si sono visti nelle amichevoli e che hanno dato un'eccellente impressione in prospettiva, è successo la settimana scorsa, mica tanto tempo fa, oppure invece la conferma dei reduci, combattenti reduci da Berlino. Sentiamo Lippi. Forse voi avete fatto, non avete fatto bene i calcoli dell'età media anche delle altre nazionali. Se fate i calcoli dell'età media dei 23 brasiliani, l'età media dei 23 brasiliani è di 27 anni e mezzo. La nostra età media è 28 anni e mezzo. E la Spagna ha 26 anni di media e 27 li avrà, cioè rispetto a noi avrà 2 anni in meno, non è che sia poi. Se fossero 32 anni di età media e 34, allora sì, ma 27-29 non credo. I calciatori sono nel pieno della loro. Io mi fido moltissimo di questi grandi giocatori che hanno ancora voglia di stare insieme, hanno ancora grande entusiasmo. Hanno grandissima esperienza internazionale, hanno vinto buona parte di loro un campionato del mondo e ha voglia di fare ancora cose belle. Io mi fido moltissimo di questi giocatori. E poi no, non dovete dimenticare un'altra cosa, che io ho sempre detto e voi lo sapete, che dai prossimi mesi ci saranno anche alcuni under 21 che entreranno a far parte, l'abbiamo sempre detto questo, perciò l'età media nostra magari si ridurrà ancora di più. Torniamo con una notizia che arriva da Roma. Sarà con 99 probabilità su 100 Ballardini il nuovo allenatore della Lazio, che verrà presentato domani alle 12 a Formello. Non è stato ufficialmente ancora fatto il nome da parte di Lotito del successore di Delio Rossi, ma è scontato che sarà Ballardini che in queste ore è a Roma per formalizzare l'accordo che lo lega alla società. C'è un'indiscrezione che arriva da un quotidiano svedese che, secondo il quale Ibrahimovic resterà in Italia per la prossima stagione per motivi familiari, e cioè perché la moglie e i figli sono ben integrati nello stile di vita italiano, avrebbero già iscritti i figli a scuola per il prossimo anno e acquistato una nuova residenza fuori Milano. Un altro capitolo che riguarda gli azzurri, sul quale ascoltare un frammento di Marcello Lippi. Quale gap dobbiamo colmare? La Spagna ha fatto maturare i suoi giovani, che in Spagna si gioca un bel calcio, su quello non ci piove, in Brasile non ne parliamo, ma su quello, questa è una questione di tradizione, non dobbiamo colmare nessun gap, dobbiamo soltanto confermarci ai nostri livelli. La qualità di questi giocatori, in una manifestazione che dura 30-40 giorni, io credo che ce ne siano poche di squadre al mondo più forti di questo gruppo di giocatori. C'è in linea un ascoltatore, Giovanni, ha chiamato da Pescara. Buongiorno. Buongiorno, salve. Niente, io prima avevo sentito il discorso sul gap con le squadre spagnole, ma secondo me non è solo una questione di soldi, quindi denaro o potere d'acquisto, a parte quello che riguarda Florentino Perez. Però se prendiamo il Barcellona ad esempio, vediamo che è una squadra dove molti giocatori vengono dalla cantinera, cioè dalla primavera, cosa che in Italia non avviene più da troppo tempo. Forse la Roma è stata, ha seguito per un po' questa corrente, poi è stata abbandonata anche a Roma l'idea. Mi sembra la differenza la fa anche questo. Basta prendere ad esempio Giovinco, che nella Juve, e non sono juventino, secondo me è un buonissimo giocatore, anche quest'anno sarà sicuramente chiuso dall'arrivo di Diego, e ci ritroveremo un giocatore italiano non pronto per la nazionale perché nel proprio club non trova spazio, a differenza dei giovani in Spagna. Sì, a differenza dei giovani in Spagna, diciamo, entro certi limiti, in qualche ruolo sì, in qualche ruolo no, anche loro sono chiusi dagli stranieri. Io credo che la vera grande differenza tra l'Italia e il resto del mondo che conta calcisticamente, intendo, sia la fatica che qua si fa a dar fiducia, a dar corda a dei ragazzi emergenti, soprattutto la voglia di insistere su di loro, anche se magari le primissime uscite lasciano intravedere, ma non sono rassicuranti fino in fondo. Ecco, altrove insistono di più, hanno un po' più di coraggio, indipendentemente che siano chiusi o non chiusi dagli stranieri. Questa a grandi linee mi sembra che emerga. Daniele ha chiamato dalla provincia di Ravenna. Salve, sì, buon pomeriggio. Io abito a Ravenna, però sono nato a Palermo e sono tifoso del Palermo. L'ho chiamata per sapere se lei sapeva il motivo per cui Ballardini è andato via da Palermo, se è stato Zamparini a cacciarlo via o viceversa, lui ha voluto andare via. Perché io negli ultimi 5 anni di Palermo in Serie A ho visto il Palermo più bello, l'ho visto quest'anno. Poi Ballardini mi sembra una persona squisita, mai fuori posto, mai una persona che quando si presenta in microfono è stupenda. Dei giocatori che sono rinati, cosa voleva Zamparini da quest'uomo? Zamparini voleva che restasse. Zamparini voleva che restasse, ma senza rinunciare ai suoi gusti, no? Alle sue abitudini. Quali sono le abitudini? Che se il Palermo gioca, il Palermo come qualsiasi altra squadra in cui c'entrasse Zamparini, se il Palermo gioca e magari vince, possibilmente, 3 partite di fila giocando un calcio ottimo o celestiale o all'altezza, quello che è tutto regolare. Se il Palermo ne perde la quarta partita, la perde o comunque la gioca male, ma il più grave è se la perde, lui deve essere libero di dire, non che il Palermo l'ha un po' deluso, ma deve essere libero di dire che l'allenatore è un cretino, che non si capisce come abbia fatto a diventare tale, che lui si pentirà sempre di averlo assunto, eccetera eccetera, per poi l'indomani dimenticare addirittura di averle detto quelle cose. Questa è una prassi costante ormai, no? Da anni, con tutti gli altri allenatori, anche con Ballardini. La differenza è questa, che gli altri lo sopportavano e invece Ballardini, senza dir nulla, con questa sua aplomb perfetto, è arrivato a fine stagione e ha detto: presidente, grazie della compagnia. La chiamano Nemesi e meno male che ogni tanto c'è. Quindi non è stato certamente, in questo caso per la prima volta nella sua carriera, non è stato Zamparini a licenziare Ballardini, anzi è stato Zamparini a restare tramortito dal fatto che qualcuno gli avesse cambiato le regole, le carte, no? Le carte in tavola. Dice: ma come, non sono io che li licenzio? No, ogni tanto c'è anche qualcuno che la schiena la tiene più dritta e che ti dice con grande eleganza, ripeto, e senza minimamente infierire né spiegare i perché, ti dice: non mi diverto così, grazie della compagnia. Tocca Massimo, mi pare, da Frosinone. Sì, buongiorno. Buongiorno, vorrei avere un suo giudizio su Pellegrini, il neo allenatore del Real Madrid, se è in grado di gestire uno spogliatoio di prime donne, ecco. No. Grazie a lei, Massimo, ma lei mi attribuisce una fiducia che non credo di meritare. Cosa vuole si possa valutare a distanza se sulla personalità o meno di Pellegrini? C'è un allenatore che io personalmente non ho mai sentito parlare, quindi non so valutarlo come persona, come dialettica, come personalità, come cosa. È un cileno, è stato 5 anni al Villarreal. In questi anni il Villarreal ha giocato un signor calcio e ha sempre rampato, è sempre stato ad alto livello. Le star che ha dovuto gestire, mi pare che le abbia per l'appunto governate bene, senza particolari problemi o traumi. Però è ovvio che star che si chiamano Kakà e soprattutto quell'altro sono di più difficile gestione. L'attenzione, la pressione che hai sulla panchina Real è diversa da quella del Villarreal, e quindi come si fa a dirlo? Questo è sempre il grande punto interrogativo che riguarda un tecnico emergente, in particolare che arriva in una grande società, arrivando a una società piccola o media o medio-alta come il Villarreal degli ultimi anni. Sarà in grado, avrà la personalità di, eccetera, e sempre ci si riferisce al rapporto col campione. Bisogna vederlo. Sentiamo ancora Giorgio da Milano, buongiorno. Sì, salve. Dica. Allora, si parla in questi giorni dei giovani in Spagna, che la Spagna vince i giovani, però adesso non so se è ancora valida questa cosa. Anni fa la squadra B del Barcellona, del Real Madrid, giocava nella Serie B spagnola. Mm-hmm. Quindi è molto più facile riuscire a tirar fuori dei giovani di alto livello. Ma è anche molto più geniale, no? Credo. Sì, cioè, perché adesso un campionato primavera italiano è differente da una Serie B o una Serie C italiana. Sì, non è proprio la B, giocano in una categoria inferiore alla Serie B, non è la seconda divisione. Sì, però, okay, però comunque sempre, cioè, si riesce a valutare meglio un giovane, certo, rispetto perché adesso io sono tifoso interista, lasciamo perdere questi ultimi anni in cui si è riuscito a far esordire Martins, Santoni, Balotelli, ma prima l'ultimo era stato Del Vecchio, prima di Pasquale era stato Del Vecchio, era 15 anni e non si faceva esordire un giovane nel mister. Sì, sì, ma cioè, questa... E con pagando una, cioè, i soldi che vengono investiti per la primavera, ho letto sui giornali che era praticamente il fatturato di una squadra che lotta per la salvezza in Serie A. Sì, sì, difatti hanno altre, hanno anche questa comunque, hanno la squadra, hanno le squadre giovanili, hanno la squadra B, hanno tutta un'altra politica, al di là poi delle capacità di investire, al di là delle pazzie che un presidente può commettere piuttosto che un altro, però hanno anche proprio questa ulteriore risorsa. Bello, sì, interessante, di eccellente memoria quello che ha scritto stamattina Roberto Becantini sulla Stampa a proposito di questo torneo in Sudafrica. Molto è superfluo, ma nulla è inutile, nemmeno un torneo di mera propaganda e titubante verifica come questo. Siamo ancora nel periodo di semina, ecco la parte più interessante. Fino a dicembre sembrava che la nazionale di Marcello Lippi non potesse crescere senza la garanzia di poter disporre prima o poi di Amauri. Oggi, sei mesi dopo, non ne parla più nessuno, a cominciare dal diretto interessato. È vero, perché se c'è un paese specializzato nel montare la panna, no? di casi più o meno che hanno più o meno fondamento, questo è il nostro. Con la stessa disinvoltura poi questi casi che sono stati montati per l'appunto a maionese, poi con la stessa disinvoltura vengono rimossi. Sentirei ancora, visto che c'è questo ballottaggio, è tornato all'attualità, vi dicevo dopo l'ultima rifinitura di stamane, il ballottaggio Tony Girardino, sentirei una voce che arriva dalla Sudafrica, che è quella di Tony. Tony si deve sempre risvegliare, perché Tony nazionale è sempre lento, impacciato e fuori forma, quindi leggo sempre questo da 2-3 anni e comunque sia, mi sembra di aver fatto tanti gol nel mio club e anche in nazionale di qualche gol ho fatto, però ormai è così, io cercherò sempre di fare il massimo per questa nazionale, dare il massimo, poi dopo vediamo. Beh, Tony, che parla di sé in terza persona, legge più o meno i resoconti e i ritratti di quello che si vede da 2-3 anni a questa parte, perché se c'è uno impacciato e che spesso e volentieri inciampa pure sul pallone, quello è Tony, quello lì in terza persona che parlava prima, insomma, con tutto il rispetto per il giocatore e per la persona. Come tradizione a questo punto del programma, il ripasso di un fatto sportivo legato alla data del giorno. Quindi Nicola Filippone ci aiuta a ricordare cosa accadde in un 15 giugno di qualche anno fa. Sembra ieri. 15 giugno 1974. A Monaco di Baviera, l'Italia esordisce nella fase finale dei mondiali contro la sconosciuta rappresentativa di Haiti. Ma il debutto è più complicato del previsto. Al primo minuto della ripresa, infatti, Spinosi si lascia scappare l'attaccante Sanon, che supera Zoff, interrompendo una striscia di imbattibilità record, durata 1143 minuti. A scongiurare una nuova Corea ci pensano Rivera, Benetti, che propizia l'autorete del 2-1, e Anastasi, che era subentrato a Chinaglia, furioso per la sostituzione con il CT Valcareggi. Ma la vittoria non scaccia le perplessità attorno agli azzurri, che infatti torneranno a casa al termine della prima fase, dopo aver pareggiato con l'Argentina e perso con la Polonia. Quello fu davvero un mondiale da non so quanti lo ricordano per ragioni anagrafiche, ma fu un mondiale da pifferi di montagna, insomma, quelli che partono per andare a suonare e tornano a casa al volo suonati davvero, perché c'erano grandi aspettative, c'erano anche soprattutto grandi giocatori in quella squadra. Peccato che alcuni fossero, se non proprio già sul viale del tramonto imboccato, molto ma molto vicini, e il resto lo fece riguasti ambientali, a cominciare da quello che Nicola Filippone ha ricordato e che coincise in particolare con non solo con il gestaccio di Chinaglia a Valcareggi, ma soprattutto con la mancata espulsione di Chinaglia dal club Italia con una certa urgenza, in maniera da ripristinare quel minimo di parametri di educazione che anche in una squadra di calcio e sarebbe il caso di osservare. Tocca a Massimo da Milano, buongiorno. Toccava a Massimo da Milano, che invece ha avuto un problema di linea e che tra poco proveremo a recuperare, perché è sempre un peccato lasciare appeso un ascoltatore già collegato. Senti, se non è ancora ripristinato il collegamento, e non mi sembra, allora sentiamo sul tema della Confederation Cup in generale, sentiamo Buffon. Ci saranno e dovremo avere da questa Confederation delle indicazioni importanti. Mi auguro di poterla vincere, perché al di là di quella che può essere la cassa di risonanza per una competizione che non è ancora al livello del mondiale o dell'europeo, io credo che per noi giocatori, ma anche per la nazione stessa, poter riuscire a risalire sul tetto del mondo sarebbe una grossa gioia, una grossa soddisfazione, darebbe una continuità di risultati molto importante e probabilmente darebbe a noi stessi e anche a voi delle certezze o delle risposte che stiamo attendendo. Stiamo parlando di Confederation, di Sudafrica, continuiamo a farlo facendo prima però partire brevemente una sigla. Confederation Cup, a un anno dal Mondiale. Siamo collegati con Stefano Piazza, direttamente con Pretoria, se non sbaglio, vero Stefano? Sì, esatto, sono a Pretoria. Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Grazie di questo appuntamento che ripeteremo nel corso ogni giorno nel corso di queste due settimane. Abbiamo già parlato, se hai ultime notizie sull'Italia o sul anche solo sul clima e sull'atmosfera di Pretoria alla vigilia, a poche ore da questa partita, cominciamo da lì. Allora, riguardo all'Italia, in realtà no, io finora ho seguito molto il ritiro della nazionale sudafricana, sono appena arrivato a Pretoria. Sì. Riguardo invece al clima intorno alla Confederations Cup e al Mondiale, io credo di poter essere abbastanza ottimista, nel senso che qui c'è un grande entusiasmo, l'organizzazione mi sembra più che buona, ci sono i famosi ritardi di cui si parla dall'inizio, però come sai tutti i paesi che organizzano grandi eventi arrivano con il fiatone alla gara inaugurale, per cui da questo punto di vista non mi preoccuperei più di tanto. Gli stadi, quelli rimaneggiati, mi sembrano praticamente a livello italiano, quindi forse non eccezionali ma accettabili. Sì. Quelli nuovi invece sono leggermente in ritardo, però per il resto direi che il paese è pronto ad accogliere tifosi e turisti senza nessun problema. Rispetto a proviamo a fare un check ambientale, per l'appunto, di accoglienza, ma di accoglienza nel senso dell'entusiasmo o anche semplicemente dell'interesse rispetto ad altre esperienze che tu hai fatto in giro per il mondo. Non ti chiedo se a un anno data esattamente da un'edizione di mondiale, ma insomma fate con parecchio anticipo, come si pone in Sudafrica in questo momento? Ma riguardo all'entusiasmo popolare, tra virgolette, mi sembra un gradino sopra le altre mie esperienze, perlomeno, nel senso che la gente africana sembra attendersi davvero tantissimo da questo mondiale ed è pronta a viverla come una festa. Questo è il clima che in realtà mi aspettavo da parte degli africani. Naturalmente c'è il dubbio se poi un grande evento come questo, un mondiale, saprà lasciare un'eredità vera, tangibile alla popolazione africana e non solo ai politici sudafricani, oppure no, il dubbio in effetti esiste, però la gente è assolutamente entusiasta, c'è una quantità spaventosa di volontari in divisa blu. L'unica cosa che posso dire è che per il 98% sono neri, i bianchi forse sono un po' freddini, nonostante ieri allo stadio per la gara inaugurale del Sudafrica ce ne fossero parecchi. Però la popolazione bianca segue ancora molto più cricket e rugby che non il soccer, che non il calcio, da queste parti. Un po' meno coinvolta almeno per il momento. Allora, esatto. Stefano, grazie di questo flash di oggi, ci risentiamo domani e ogni giorno cercheremo di trovare un'angolazione diversa per dare un ritratto alla lontana, sia pure in sintesi, per pillole, di questo grande paese che si appresta a vivere tra un anno questa avventura. Grazie a Stefano Piazza, sigla. Confederation Cup, a un anno dal Mondiale. In collaborazione con... Nasce nuova Nissan Pixo. Facile da scegliere, facile da avere. Tua da 5.790 euro con rottamazione, senza anticipo, da 95 euro al mese con 5 anni di garanzia. TAEG 10,52% fino al 30 giugno. Scopri Nissan Pixo fino alle 22 da giovedì a sabato dai concessionari Nissan. In strada tra colleghi, scrive Sergio, tassista milanese, gira la voce che il Milan stia trattando Juninho pernambucano, ex giocatore a Lione. Le risulta, dunque, a me intanto di mercato risulta nulla, Sergio, non sprechi degli sms per questo. Mi pare che il Milan abbia imboccato la via del rinnovamento e mi pare anche che la stia cavalcando dialetticamente, a leggere e a sentire Gagliani tra ieri e stamattina sembra che il Milan sia una squadra, stavo per dire una parolaccia, sia una squadra che ama molto i ragazzini, i giovani, e anzi che se ne fa un culto, no? da anni e da sempre. Se tutto va bene, sta accadendo da un paio di giorni circa, dopo alcuni anni di gerontofilia. Non credo però che Juninho pernambucano, quindi sarebbe, diciamo, una controtendenza rispetto a questa linea attuale. Certo, pernambucano è un gran giocatore su cui non investire in prospettiva, ma stiamo a vedere. Vediamo se riusciamo a smaltire ancora questi due amici già collegati. Massimo, che era caduto prima nel senso della linea. Massimo da Milano, buongiorno. Buondì Garanzini. Dica. Senta cortesemente, in prospettiva mondiale non trova che se magari Lippi convocava Balotelli poteva fargli fare un minimo d'esperienza a livello d'ambiente, così non lo so, se rimane nei suoi piani, anche se io uno più forte di Balotelli in questo momento non lo vedo, cioè nella nazionale, ecco, c'è Giuseppe Rossi, però mettergli a fianco uno come Balotelli, cosa ne pensa lei? Ma penso che portarsi dietro i Balotelli e Cassano, Lippi, ho l'impressione che non sia molto il suo genere, ecco, da un punto di vista ambientale. Credo che lo farà, lo farebbe o lo farà l'anno prossimo se davvero costretto dagli eventi, se si rimane in questa classificazione di massima di valori in cui grosso modo uno vale l'altro. Mi pare aver capito e che ci abbia fatto capire ad abbondanziam che è un'esperienza che si evita, insomma. Stefano Genova, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Senta, niente, volevo dire una cosa, io sono un tifoso della Nazionale come tutti, ma non tifosi quando ci sono le grandi competizioni, però volevo spezzare una lancia, siamo campioni del mondo, negli ultimi 20 anni abbiamo vinto 2 volte il campionato del mondo, nel 92 e nel 1900 e nel, va bene, 2006. Facciamo l'82, va, comunque, sì, non cambia molto, però insomma, per la precisione. 82, scusi, ma ho avuto 10 anni, va bene, però siamo una nazionale che è sicuramente di grandissimo pregio per tutto. Siamo un attimo, cioè adesso c'è il ciclo della Spagna, noi in Italia siamo portati a drammatizzare sempre. La Spagna non ha mai vinto niente, voglio dire, eppure ha avuto una grande squadra come Real Madrid, giocatori come Di Stefano di grandissimo livello. Adesso il loro ciclo vedremo, perché per esempio negli ultimi europei la Spagna noi ci ha battuto ai rigori, se ben ricordo, in una partita che potevamo tranquillamente vincere anche noi. Di conseguenza, voglio dire, dobbiamo un pochettino avere anche un po' onore alla nostra nazionale, ecco, in fondo sì, e raccontare però le cose che stanno succedendo, per esempio che in questo momento la Spagna gioca un calcio più divertente del nostro, poi magari da domani non sarà più così, raccontiamo giorno per giorno come vanno le cose senza sventolare la bandiera a ogni costo. Lei dice non lasciamola marcire sul pennone, va bene, io le rispondo non è necessario sventolarla tutti i giorni in maniera frenetica. Grazie Stefano, grazie Filippo Aureggi in regia, grazie a Laura Vanossi in redazione. Appuntamento a tutti, a domani.